ad alta voce. Sandro Lombardi legge Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Un gesto, una smorfia bastava. Bastava anche dire che Fadigati era così, che era di quelli. Ma talvolta, come succede a parlare di argomenti indecorosi e dell'inversione sessuale in specie, c'era chi ricorreva sogghignando a qualche parola del dialetto, che è sempre tanto più cattivo da noi in confronto alla lingua dei ceti superiori. Per poi aggiungere, non senza malinconia, già, che tipo però. Come abbiamo potuto non pensarci prima? Sorridevano, comunque, quasi che non fossero troppo scontenti di essersi accorti del vizio di Fadigati con tanto ritardo. Per rendersene conto, ci avevano impiegato più di 10 anni, figurarsi, ma anzi, in certo modo, rassicurati. In fondo, esclamavano alzando le spalle, perché non riconoscere anche nell'irregolarità più vergognosa lo stile dell'uomo? Ciò che li persuadeva maggiormente all'indulgenza nei riguardi di Fadigati e, dopo il primo moto di allarmato sbalordimento, quasi all'ammirazione, era appunto il suo stile, intendendo per stile principalmente una cosa, la sua riservatezza. Il palese impegno che egli aveva sempre messo e continuava tuttavia a mettere nel dissimulare i suoi gusti, nel non dare scandalo. Sì, dicevano, adesso che il suo segreto non era più un segreto, adesso che tutto era chiaro, si era capito finalmente come comportarsi con lui. Di giorno, alla luce del sole, fargli prontamente di cappello. La sera, anche essere spinti ventre contro ventre dalla calca di via San Romano, mostrare di non conoscerlo. Come Friedrich March nel Dottor Jekyll, il dottor Fadigati aveva 2 vite. Ma chi non ne ha? Sapere equivaleva a comprendere, non essere più curiosi, lasciar perdere. Prima d'allora, entrando in un cinema, la cosa che più li assillava, ricordavano, era di sincerarsi se lui fosse negli ultimi posti come al solito. Conoscevano le sue abitudini, avevano notato che non sedeva mai. Ficcando gli sguardi nelle tenebre, oltre la balaustrata della galleria, lo cercavano là, in basso, lungo le sordide pareti laterali, presso le porte delle uscite di sicurezza e delle latrine. Non riuscivano a intendere la ragione del suo modo di agire. Appunto per questo, o forse, non trovavano requie finché non avessero colto il tipico luccichio che i suoi occhiali d'oro mandavano ogni tanto attraverso il fumo e l'oscurità. Un piccolo lampo inquieto, proveniente da una lontananza davvero infinita. Ma ora? Che cosa importava, ora, appena entrati, avere subito conferma della sua presenza? E perché mai, d'altra parte, avrebbero atteso col disagio di una volta ogni ritorno della luce in sala? Se esisteva un borghese a Ferrara al quale fosse riconoscibile il diritto di frequentare le platee popolari, di immergersi a suo talento e in faccia a tutti nell'orrido sottomondo degli scanni da 1 lira e 20 centesimi, questi non poteva essere che Fadigati. Lo stesso accadeva ai commercianti e ai concordi le 2 o 3 sere all'anno che vi capitava. Come ho già detto, era socio di entrambi i circoli dal 1927. Mentre in passato, a vederlo attraversare la saletta dei biliardi e tirar via senza fermarsi davanti ai tavoli di poker e di écarté, ogni viso era pronto ad assumere un'espressione tra stupita e costernata, adesso no. Erano ben rari gli sguardi che si staccassero dai panni verdi per seguirlo fino alla porta della biblioteca. Egli aveva tutto l'agio di chiudersi in biblioteca, dove non c'era mai anima viva, dove i cuoi delle frau riflettevano fiocamente i tremuli bagliori del caminetto, e sprofondarsi fino a mezzanotte e oltre nella lettura del libro scientifico che si portava da casa. Chi trovava più nulla da obiettare su una stranezza simile? Di più, ogni tanto viaggiava, o, per dirla con le sue stesse parole, si concedeva qualche evasione. A Venezia per la Biennale, a Firenze per il maggio. Ebbene, ora che la gente sapeva, poteva succedere di incontrarlo in treno a notte alta, come toccò nell'inverno del 34 a una piccola comitiva cittadina recatasi al Berta di Firenze per una partita di calcio, senza che alcuno si permettesse i maliziosi «Guarda ve chi si vede!» sempre di rigore tra ferraresi appena si ritrovino fuori dell'angusto territorio compreso fra gli argini paralleli di Reno e Po. Dopo che lo ebbero invitato premurosamente ad accomodarsi nel loro scompartimento, i nostri bravi sportivi, che non erano certo dei musicomani, Wagner, solo al nome si sentivano affondare in un oceano di tristezza, stettero lì, buoni buoni, ad ascoltare un infervorato resoconto di fatigati a proposito del Tristano che Bruno Walter, quello stesso pomeriggio, aveva diretto al Comunale Fiorentino. Fatigati parlò della musica del Tristano, dell'ammirabile interpretazione che il maestro germanico ne aveva dato, ma del secondo atto dell'opera soprattutto, il quale disse «non è che un lungo lamento d'amore». Parlò della panchina, trasparente simbolo del talamo nuziale, dove i due amanti siedono e cantano per tre quarti d'ora filati, diffondendosi sulla panchina, sul rosaio fiorito che la avvolge e sulla notte d'amore di Isotta e di Tristano, sulla loro sublime ewige Nacht, Fatigati socchiudeva le palpebre dietro le lenti, sorridendo rapito. E gli altri lo lasciavano fare, non fiatavano, si limitavano a scambiarsi qualche occhiata di soppiatto. Ma era Fatigati stesso, con la sua condotta formalmente ineccepibile, a favorire attorno a sé un così largo spirito di tolleranza. Su di lui, dopo tutto, che cosa poteva dirsi di concreto? Al contrario di quello che era lecito attendersi da soggetti dello stampo di donna Laura Grillanzoni, per esempio, una più che settantenne dama della nostra migliore aristocrazia, i cui impetuosi atti di seduzione perpetrati nei confronti dei garzoni delle drogherie e delle macellerie che le venivano per casa la mattina correvano normalmente sulla bocca di tutti, e ogni tanto la città ne imparava una nuova sul suo conto, ridendoci sopra, si capisce, ma anche deplorando. L'erotismo di Fatigati dava ogni garanzia che sarebbe stato sempre contenuto dentro precisi confini di decenza. Di ciò i suoi molti amici ed estimatori si proclamavano più che sicuri. Nei cinema, è vero, erano costretti a riconoscere, egli andava a mettersi puntualmente poco discosto dai gruppi dei soldati, da cui l'apparenza di fondamento che prendeva l'insinuazione di un suo presunto debole per i militari. Altrettanto vero, tuttavia, che mai, riprendevano a dire con energia, il poveretto era stato visto avvicinarsi ai soldati oltre un dato limite, mai accompagnarsi con qualcuno di essi per strada, né mai, tantomeno, nessun giovane lanciere del Pinerolo Cavalleria, con l'alto colbacco calato sugli occhi e la pesante, rumorosa sciabola sotto il braccio, era stato visto varcare ad ore sospette la soglia di casa sua. Restava il suo viso, sì, grasso ma grigio, e coi tratti tirati da un'ansia segreta e continua. Era unicamente quel suo viso a ricordare che cercava. Quanto però a trovare, come e dove, chi era in grado di parlarne con cognizione di causa? Di tempo in tempo, comunque, si udiva discorrere anche di questo, a distanza magari di anni, con la medesima lentezza e quasi riluttanza con cui, risalendo dal fondo melmoso, rade bolle d'aria si vedono emergere e scoppiare in silenzio alla superficie di certi stagni, ecco che ogni tanto venivano fatti dei nomi, indicate delle persone, precisate delle circostanze. Intorno al 35, rammento bene che al nome di Fadigati andava associato di solito quello di certo Manservigi, una guardia municipale dagli occhi azzurri, inflessibili, che quando non dirigeva pomposamente il traffico ciclistico e automobilistico all'incrocio tra Corso Roma e Corso Giovecca, noi ragazzi avevamo talora la sorpresa di trovare sul montagnone, mentre, reso quasi irriconoscibile dai dimessi abiti borghesi, assisteva con uno stuzzicadenti in bocca alle nostre interminabili partite di calcio, spesso protratte fin oltre l'imbrunire. Più tardi, verso il 36, si udì di un altro, un usciere del comune, tale Trapolini, dolce e melliflua persona, sposato e carico di figli, del quale erano assai noti in città lo zelo cattolico e la passione per il teatro d'opera. Più tardi ancora, durante i primi mesi della guerra di Spagna, venne ad aggiungersi alla parca lista degli amici di Fadigati anche il nome di un ex giocatore dell'Unione Sportiva Estense. Scuro di pelle, imbalsito, le tempie ormai grigie, si trattava proprio di quel Bausi, Olao Bausi, che nel decennio fra il 20 e il 30 era stato, chi non lo ricordava, una specie di idolo della gioventù sportiva ferrarese e in pochi anni si era ridotto a vivere dei peggiori espedienti. Dunque, niente soldati, mai nulla di praticato in pubblico, sia pure in esclusiva fase di approccio. Mai nulla di scandaloso, bensì rapporti accuratamente clandestini con uomini di mezza età e di condizione modesta, subalterna, con individui discreti, insomma, o almeno tenuti in qualche modo a esserlo. Verso le 3, le 4 di notte, dalle persiane dell'appartamento di Fadigati filtrava quasi sempre un poco di luce. Nel silenzio del vicolo, interrotto solamente dagli strani sospiri dei gufi appollaiati lassù in alto, lungo i vertiginosi, appena visibili cornicioni del Duomo, volavano fiochi e brandelli di musiche celestiali. Bach, Mozart, Beethoven e Wagner. Wagner, soprattutto. Forse perché la musica wagneriana era la più indicata a evocare determinate atmosfere. L'idea che la guardia Manservigi o l'usciere Trapolini o l'ex calciatore Bausi fossero in quello stesso momento ospiti del dottore non poteva essere accolta dall'ultimo nottambulo di transito a quell'ora per via Gorgadello altro che a cuor leggero. Nel 1936, esattamente 20 anni fa, il treno locale in partenza da Ferrara ogni mattina, qualche minuto prima delle 7, percorreva i 45 chilometri di linea ferroviaria che separano Ferrara da Bologna in non meno di un'ora e 20 minuti. Quando tutto filava liscio, il treno arrivava a Bologna verso le 8:15. Ma il più delle volte, anche se si lanciava a gran carriera lungo il rettilineo dopo Corticella, il convoglio imboccava la larga curva che mette nella stazione bolognese con 10-15 minuti di ritardo. Nel caso che dovesse arrestarsi al semaforo d'ingresso, i minuti diventavano perfino 30. Non erano più i tempi del vecchio Ciano, d'accordo, quando certi treni all'arrivo trovavano ad attenderli il ministro delle comunicazioni in persona, nell'atto di misurare a passi impazienti la banchina e di controllare ogni momento l'ora al quadrante del grosso orologio che estraeva dal taschino del panciotto. Vero è, d'altra parte, che l'accelerato delle 6:50 faceva assolutamente quello che voleva. Sembrava ignorare il governo, ignorare il suo vanto di aver imposto anche alle ferrovie dello Stato il rigido rispetto degli orari. Quanto al governo, poi, almeno in questa circostanza bisognerà ammettere che fosse disposto a chiudere non uno, ma ambedue gli occhi. Il locale da Ferrara del primo mattino poteva entrare in stazione a Bologna con mezz'ora di ritardo e più. Chi gli badava? Chi se ne preoccupava? Mezzo coperta d'erba, priva di tettoia, la banchina del sedicesimo binario che gli era riservata era l'ultima, confinava con la campagna di fuori Porta Galliera. Aveva proprio l'aria di essere dimenticata. Di solito il treno si componeva di 6 carrozze soltanto, 5 di terza classe e una di seconda. Ricordo le mattine del dicembre ferrarese, le buie mattine degli anni in cui eravamo studenti, quando, ahimè, dovevamo alzarci con la sveglia. Dal tram che correva sferragliando a rompicollo in direzione della barriera daziaria di Viale Cavour, sentivamo il treno fischiare ripetutamente. Lontano e invisibile. Sembrava che minacciasse: badate, parto. O addirittura: è inutile che vi affrettiate, ragazzi, sono belle partito. Però non erano che le matricole, in genere, maschi e femmine, a smaniare attorno al conduttore perché aumentasse la velocità. Tutti noi altri, Eraldo Deliliere compreso, il quale si era iscritto quello stesso anno a Bologna in scienze politiche ed era matricola, perciò, ma si comportava già con la disinvoltura e l'indifferenza di un anziano, sapevamo che l'accelerato delle 6:50 non sarebbe mai partito da Ferrara prima di aver fatto il carico delle nostre persone. Il tram si fermava davanti alla stazione, finalmente. Balzavamo a terra. Dopo pochi istanti ci trovavamo sul treno, sbuffante da ogni parte candidi getti di vapore, ma immobile sul suo binario, come previsto. Deliliere, lui, sopraggiungeva sempre per ultimo. Camminava lemme lemme, sbadigliando. Accadeva molto spesso, difatti, siccome si era addormentato, che dovessimo tirarlo giù dal tram a forza. I vagoni di terza classe, si può dire, erano tutti per noi. Eccetto qualche viaggiatore di commercio, qualche sparuta compagnia di varietà che aveva pernottato nella sala d'aspetto della stazione e con le cui ballerine si cercava talvolta di fare un po' di amicizia durante il viaggio, da Ferrara a quell'ora non partiva mai nessuno. Ciò non significa, ad ogni modo, che il treno delle 6:50 raggiungesse la meta viaggiando sempre mezzo vuoto. Nel corso del suo pigro trasferimento dal buio fitto di Ferrara alla luce di certi mattini bolognesi, luce intensa, sfolgorante, con il colle di San Luca bianco di neve e le cupole delle chiese color verde rame che spiccavano quasi in rilievo sul rosso mare delle torri e dei tetti, il treno raccoglieva via via dalle piccole e minime stazioni dislocate lungo la linea, gente sempre nuova. Erano studenti medi, ragazzi e ragazze, maestri elementari d'ambo i sessi, piccoli proprietari agricoli, mezzadri, mercantucci di vario bestiame, riconoscibili dalle ampie mantelle, dal cappello di feltro calato sugli occhi, dallo stuzzicadenti o dal mezzo toscano incastrati fra le labbra, gente della campagna, che parlava già nello sguaiato dialetto bolognese e dal cui contatto ci si difendeva barricandoci dentro 2 o 3 scompartimenti contigui. L'assalto dei Villan cominciava a Poggio Renatico, 1 chilometro prima dell'argine di sinistra del Reno. Si rinnovava a Galliera, appena di là dal Ponte di Ferro, e poi a San Giorgio di Piano, a San Pietro in Casale, a Castelmaggiore, a Corticella. Quando il treno arrivava a Bologna, dagli sportelli aperti con violenza quasi esplosiva, si riversava sulla banchina del 16° binario una piccola folla tumultuosa di diverse centinaia di persone. Restava il vagone di seconda classe, unico e solo, sul quale, almeno fino a una certa data, e precisamente fino all'inverno 1936-1937, non salì mai un'anima. Il personale di scorta al treno, un quartetto fisso che, viaggiando su accelerati, faceva la spola tra Ferrara e Bologna 5 o 6 volte al giorno, vi teneva ogni mattina accademia di scopa e di 3-7. E noi, dal canto nostro, ci eravamo talmente abituati al fatto che il vagone di seconda classe fosse riservato in pratica al capotreno, al controllore, al frenatore e al graduato della milizia ferroviaria, ammiccanti e gentili finché si vuole, i quattro, specie se fiutavano studenti del GUF, ma decisissimi a vietare ogni passaggio di classe abusivo, ci pareva ormai così naturale, voglio dire, vederlo funzionare come una specie di circolo del dopolavoro ferroviario, che da principio, quando il dottor Fadigati incominciò a venire a Bologna 2 volte la settimana e prendeva costantemente il biglietto di seconda, da principio non gli badammo, non ce ne accorgemmo nemmeno di lui. Fu comunque questione di poco tempo. Chiudo gli occhi. Rivedo il grande varco asfaltato del viale Cavour, interamente deserto dal castello fino alla barriera daziaria, coi lampioni stradali disposti in lunga prospettiva a una 50ina di metri l'uno dall'altro, ancora tutti accesi. Il conduttore Aldrovandi, di cui dall'interno del tram non si può scorgere che la gobba schiena irritata, spinge il suo decrepito carrozzone al massimo. Ma ecco, un po' prima che il tram sia arrivato alla barriera, ecco piombare alle nostre spalle e sorpassarci, rapidissima, col caratteristico fruscio soffocato che fa il motore della Lancia, una macchina, un tassì. È una Astura verde, sempre la stessa. Ogni martedì e venerdì mattina ci supera pressappoco alla medesima altezza di Viale Cavour. Ed è così veloce il tassì che quando noi, col nostro tram che beccheggia paurosamente nello sprint finale, irrompiamo nel piazzale della stazione, esso non solo ha già deposto il suo passeggero, un signore corpulento, fornito di lobbia dal bordo bianco, di occhiali d'oro, di cappello dal bavero di pelliccia, ma ha fatto manovra e sta anzi ripartendo in direzione contraria alla nostra, verso il centro. Chi sarà stato di noi a richiamare per primo la curiosità generale sul signore del tassì? Sul signore, piuttosto che sul tassì? È vero, in tram, con la bionda testa ricciuta riversa sulla spalliera di legno, per solito Delilier dormiva. Eppure mi sembra proprio che sia stato lui, una mattina intorno alla metà di febbraio del 37, mentre varie mani, sempre un po' più numerose del necessario, si sporgevano attraverso lo sportello per aiutarlo a salire in treno ed egli si faceva sollevare quasi di peso, giurerei che sia stato proprio Delilier ad annunciare che la seconda classe aveva trovato nel tipo dell'Astura un cliente fisso, fisso e pagante, e che questo tale era il dottor Fadigati, niente meno. Fadigati? Chi era costui? Chiese con aria stordita una delle ragazze, Bianca Sgarbi, precisamente, la maggiore delle due sorelle Sgarbi, l'altra Attilia, di 3 anni più giovane e tuttora al liceo, all'inizio del 37 ancora non la conoscevo. La sua domanda fu accolta da grandi risate. Delilier si era seduto e stava accendendosi una nazionale. Aveva la mania di accendere le sigarette dalla parte della marca, attentissimo ogni volta a non sbagliarsi. A quell'epoca Bianca Sgarbi, la quale faceva molto di malavoglia il terzo anno di lettere, era quasi fidanzata con Nino Bottecchiari, il nipote dell'ex deputato socialista. Benché filassero assieme, come si dice a Ferrara, non andavano troppo d'accordo. esuberante di natura e quasi presaga del triste futuro che attendeva i giovani della nostra generazione, e lei in particolare, rimasta vedova di un ufficiale di aviazione precipitato su Malta nel 42 con due figli maschi da crescere, la poverina è finita poi a Roma, impiegata a Ventizia al Ministero dell'Aeronautica. Essa si mostrava insofferente di ogni legame, divertendosi a civettare con chiunque le faceva comodo e passando in pratica da un flirt all'altro. «E allora si può sapere chi è?» insistette Bianca mollemente, piegata verso Dellier che le sedeva di fronte. Rannicchiato accanto a quest'ultimo, nel posto d'angolo presso lo sportello, il povero Nino soffriva in silenzio. «Oh, un vecchio finocchio», proferì infine Dellier, con calma, rialzando il capo e fissando la nostra compagnia dritto negli occhi.